10 interventi, già avrà 2 interventi, 5 minuti perché c'è poco tempo. Barbara. Io volevo dare degli esempi concreti di quelle che sono state appunto definite pratiche omonazionaliste, da dove viene questo termine, appunto un po' di esempi, anche vedere come in Italia alcuni discorsi nazionalisti omonazionalisti iniziano ad attecchire anche in Italia. E parto da una cosa che molti di noi sanno, da quello che è successo a Pride di Berlino di quest'anno, nel momento in cui Judith Butler era stata chiamata a Berlino per prendere un premio al coraggio civile, se non sbaglio, e lei pubblicamente decise di non accettare questo premio, salì sul palco denunciando il fatto che il Pride di Berlino e gli organizzatori, diciamo, del Pride, parte dell'organizzazione del Pride, si fosse fatta portavoce di e avesse anche agito delle pratiche, diciamo, razziste. E quindi Butler, con questo suo rifiuto del premio, ha messo in guardia il movimento LGBT europeo su quella che in un certo modo potremmo definire una sorta di concorrenza dei diritti. Cioè l'idea che nel momento in cui l'Europa è diventata un terreno di migrazione di massa, diritti delle donne, come ci diceva bene prima Titti, diritti delle donne e anche diritti dei gay e delle lesbiche possono potenzialmente essere minacciati da immigrati che vengono ritenuti portatori di omofobia e di strutture patriarcali maggiori e, diciamo, più violente rispetto a quelle dei nativi. E quindi Butler appunto denuncia questo percorso. E ci sono tutta una serie di esempi, ad esempio sia in Germania che in Olanda, per ottenere il test della questi sono esempi che sono portati in imperialismo gay, anche in altri articoli che sono stati scritti da Jean, che è lo stesso che ha scritto appunto imperialismo gay. Ad esempio, sia in Olanda che in Germania, il test della cittadinanza, e nel test della cittadinanza ci sono alcune domande specifiche sull'omosessualità, cioè cosa pensi dell'omosessualità? Quando un immigrato chiede la cittadinanza vengono fatte delle domande sull'omosessualità, oppure e questo è particolarmente evidente ad esempio in Olanda, dove io il caso tedesco non lo conosco, ma il caso olandese un po' lo conosco avendoci anche vissuto. In Olanda è molto forte la retorica per cui si sta indietreggiando in Olanda per quanto riguarda la questione dell'omofobia, perché ci sono troppi turchi, ci sono troppi marocchini e troppi algerini. E un po' il portavoce di questa politica è stato anche Pim Fortuyn, che è una delle figure del frocio di estrema destra, che un po' rappresenta queste politiche omonazionaliste. Il termine omonazionalismo è stato creato da una teorica queer statunitense di origine pakistana, se non sbaglio, o indiana, nel momento in cui lei ha analizzato come dopo l'11 settembre nell'esercito statunitense, ma poi sono anche esempi sull'esercito israeliano, l'integrazione dei gay e delle lesbiche nell'esercito ha avuto come, diciamo, ragione ideologica molto forte quella di andare a combattere appunto in questi luoghi di oppressione patriarcale di oppressione omofoba. Questo è evidente anche in Israele, dove c'è una retorica molto forte sull'esercito israeliano come l'esercito più ferocio del mondo, e ci sono, cioè, sempre in questo testo in cui c'è anche il imperialismo gay, c'è proprio un articolo che analizza le retoriche all'interno sia del movimento LGBT israeliano che nell'esercito israeliano, sul andiamo appunto a combattere, e anche c'è tutta una retorica molto forte dello stupro, cioè di uomini gay che vogliono andare a correggere o a punire gli omofobi palestinesi. Poi volevo appunto questa creazione di questa sorta di messa in concorrenza, no? Dei diritti. Siamo minacciati da loro, siamo minacciati da loro. E questo secondo me in Italia c'è come retorica, e io volevo prendere in considerazione questo famoso documento di Casa Pound. Io non so se l'avete letto, questo famoso documento di Casa Pound, in cui Casa Pound parla di unioni civili, del riconoscimento di unioni civili, la retorica che c'è un po' dietro quel documento. Casa Pound cosa dice? Fondamentalmente dice che le lesbiche esistono, sono un dato di fatto, le coppie di fatto sono un dato di fatto, E quello che bisogna fare è lavorare per integrare all'interno della loro visione organicistica, organica dello Stato, queste nuove soggettività. Cosa c'è? Cioè, dietro quella logica, cosa c'è? C'è l'idea appunto che gay e lesbiche possono diventare soggetti organici della nazione a patto che sposino quelle che sono le retoriche della nazione, fondamentalmente. Quindi è tutto il discorso che faceva Renato anche sul ripulirsi in un certo qual modo. E io mi ricordo che nei giorni in cui scoppiò la vicenda di Casa Pound, anche per partecipazione di Paola Concia a questo tavolo in cui si discuteva Casa Pound, mi ricordo un articolo del Corriere Veneto che mi colpì tantissimo. C'era un articolo del Corriere Veneto proprio in quei giorni, tipo il giorno prima o 2 giorni prima che Casa Pound, questi incontri a Casa Pound, il Corriere Veneto pubblica un articolo in cui dice: nella nostra, forse proprio a Verona, hanno picchiato 2 ragazze lesbiche. Oh mio Dio, appunto Verona è una città che denuncia, favorevole ai diritti di gay e lesbiche, denuncia questa violenza sulle lesbiche, portata avanti da 2 ragazzi marocchini, e lì c'era tutta, c'erano, tutti si riportavano le frasi di insulti di questi ragazzi marocchini. Queste 2 lesbiche dicevano al paese nostro che vi avremmo ucciso. Quindi il Corriere Veneto che si faceva portavoce dei diritti di gay e delle lesbiche. E se riprendiamo quello che ci raccontava Graziella e Porpora all'inizio dei workshop su cosa avvenne a Verona, no, possiamo leggere come un inizio di retorica, inizia appunto della messa dell'idea che l'omofobia è qualcosa che ci viene portata dall'esterno. Sì, però credo che sia anche un problema prettamente di quel giornale. Certo. No, nel senso che a seconda di come sì, a parte che a seconda di chi l'ha scritto, a seconda delle informazioni che gli sono state date, a seconda di come il vento tirava, i 2 giornali principali che ci sono a Verona. Magicamente te li trovi spostati da una parte, spostati dall'altra, poi non capisci che gioco stiano facendo. Era interessante la retorica che c'era. Sì, no, certo. Scusa, c'è un lavoro di merda su 2 giorni, Filippo. Io non ho quasi nessuna risposta, anzi, proprio nessuna, però un po' di domande me le pongo. E partivo prima dall'intervento che sentivo di Titti, e la cosa che non ho mai condiviso di un certo atteggiamento di lotta è pensare che la lotta si possa fare per la lotta, cioè che il conflitto basti a se stesso. Io credo che o la lotta è uno strumento per l'emancipazione, ma l'obiettivo rimanga l'emancipazione, o la lotta per la lotta spesso sia assolutamente deleteria. Però questo era una cosa che poi rilevo alla Filippo, fine. l'emancipazione, l'ultima volta che ho usato questa parola è stato l'Udine nel 52, cioè nel senso, aggiorniamoci un pochino su te. No, però era la lotta per la lotta di quest'anno, soprattutto per gli iscritti. La cosa che mi domando spesso è per esempio sugli ebrei, perché io ho un compagno che insomma viene da una famiglia ebrea e spesso in realtà io ho anche assimilato dentro di me in chiave anti-israeliana, perché come si dice, ho avuto come un caro amico un israeliano che insomma è stato in carcere perché si è rifiutato ad andare al fronte, quindi sono particolarmente accanito contro Israele, e mi rendo conto, e lui mi raccontava come in realtà essere vittima o carnefice, oppresso o oppressore, non è assolutamente legato all'identità, perché gli ebrei sono un'identità che si rappresenta come vittima e che è stata vittima. Proprio del nazismo, eppure è diventata, come si dice, in 20 anni, in 30 anni, da un'altra parte, con un'altra retorica, è diventata assolutamente violenta. E quindi, secondo me, è vero che da una parte noi dobbiamo ragionare del fatto che non dobbiamo diventare oppressori di un'altra minoranza, però quello che ci dobbiamo dire è che, e qua è il passaggio che mi rimane sempre come perplessità, che il nemico del mio nemico non è mio amico, e che quindi per esempio su un personaggio come Ahmadinejad o come alcune, come si dice, dimostrazioni del potere, come si dice, islamico, Io continuo a pensare che quel modello è un modello assolutamente razzista lì. Ma dire già non è esattamente l'espressione minoritaria. No. No, no. No, come dire Berlusconi italiano, cioè uguale. No, ma infatti no. Il problema. Ma stai dicendo la stessa cosa, però, dicono le signore che dal piano di sotto vi dicono l'Islam fa schifo, la stronza è lei che si mette il fazzoletto in testa, cioè c'è un spostamento semantico dal problema alla vittima, non capisco qual è. No, ma io sto dicendo che io ti spongo delle domande, poi se riesco a uscirne arricchito è proprio perché mi sono svegliato stamattina per uscirne arricchito su questo. Non ho nessun problema, non c'è niente. Però ti dico che secondo me, e come si dice, è un problema che mi pongo spesso, è invece dall'altra parte una retorica a non poter condannare alcune altre dinamiche. Il problema di riuscire a argomentare un discorso complesso su questo è, io lo vedo un po' nella cinematografia. Molti di noi avranno visto Jihad for Love, che è invece un documentario abbastanza, come si dice, che prende in considerazione molti paesi islamici e la condizione degli omosessuali in molti paesi islamici. È vero che la questione è piuttosto articolata e secondo me anche dall'altra parte, come si dice, c'è sempre il rischio di dire che il nemico del mio nemico è il mio amico, e su questo dobbiamo veramente riuscire a portare un pensiero abbastanza articolato, se no secondo me questa cosa è il più grosso pericolo che la vedo, insomma. No, beh, io volevo, cioè nel senso, ovviamente la discussione, secondo me sono usciti vari punti interessanti che andrebbero approfonditi, ma ne volevo soltanto riprendere due in particolare che mi hanno ispirato, insomma, attenzione. Uno è quando lui ti diceva, nel senso, secondo me è una cosa su cui dobbiamo iniziare a fare attenzione, no? Il fatto che quella che viene spesso mostrata è l'immagine della lesbica che non dà fastidio, e fa l'esempio della lesbica madre, e a me questa cosa non è che mi convince proprio, perché secondo me invece la figura della lesbica madre mette seriamente in discussione qualcosa, cioè io non la vedo proprio come una figura così conservatrice mostrare una lesbica madre che, come dire, cioè, crea una donna lesbica madre, secondo me non è una figura così conservatrice, secondo me è anzi una figura che mette proprio in discussione pesantemente cioè molti stereotipi che ci sono, di cui si parlava appunto anche stamattina, e che quindi, cioè nel senso, dovremmo un attimino forse parlarne meglio, perché non lo so, ho sempre paura di liquidare un po' le cose. L'altra cosa molto più interessante, cioè più è sul rapporto tra razzismo e politiche securitarie. Cioè, secondo me sicuramente sono collegate, però io non credo che il razzismo possa essere penso che il razzismo sia uno strumento fondamentale delle politiche securitarie, che però non si fermano al razzismo e non necessariamente hanno bisogno del razzismo. Cioè, secondo me, io credo che il fine delle politiche securitarie, soprattutto per come le conosciamo, non solo in Italia, negli ultimi 10, 20, 30 anni, sia ben altro. Cioè, nel senso, quello a cui assistiamo è proprio la criminalizzazione di ogni forma di marginalità e devianza. Cioè, che non è soltanto quella etnica, ma è proprio quella di classe. Cioè, nel senso, no? La riqualificazione di determinati quartieri degradati, perché causerebbero un certo tipo di problema, secondo me risponde proprio a quello, cioè alla voglia, cioè si creano, con la criminalizzazione si crea una nuova forma di profitto devastante, perché ricostituire un quartiere genera profitti a non finire, e dall'altra crei proprio un immaginario della devianza e di quella che è la normalità. E quindi, riallacciandosi un po' a quello di cui parlavamo ieri, secondo me le politiche di tolleranza zero, le politiche securitarie, rientrano proprio in pieno nella crisi del welfare, cioè nel senso nell'abbattimento del sistema sociale, perché è proprio in quella direzione che spingono. Cioè lo Stato, se prima possiamo ovviamente criticare, discutere dell'atteggiamento paternalistico dello Stato che si prendeva in cura e in carica di tutte una serie di problematiche, però questo tipo di atteggiamento viene messo pesantemente sotto attacco e non si vuole far passare questo come motivo, cioè quello dei conti, ma si dice appunto che può dare devianza alla marginalità, quindi quello che prima veniva tra virgolette curato, prevenuto, adesso viene proprio non tollerato, abbattuto o al massimo messo in prigione o nei CIE o in altra forma, e in questo lo vedo appunto non soltanto rispetto ai migranti ma rispetto alla povertà, rispetto alla prostituzione, che anzi forse è il campo che più mi viene in mente, no? Cioè, nel senso, secondo me quello che sarà la legge Carfagna è proprio in quella direzione, cioè nel senso togliere la prostituzione di strada, perché non è dignitoso per donne stare in strada, ma farle prostituire è chiuso, secondo me è proprio in quella direzione là, cioè nel senso ripuliamo il quartiere, così anche ho la ricostruzione di Tor Bella Monaca, così anche Tor Bella Monaca diventa un'isola felice per tanti bei costruttori, e quindi nel senso, no? Andiamo in quella direzione. Olivia. Sulle inclusioni delle società di LGBT e in che modo queste lavorano in termini di disciplinamento. E secondo me il documento che ci dà prima Barbara è l'esempio per rispondere alla questione che poneva Renato su in che modo in una situazione come la nostra in cui cioè non ci stanno di fatto per esempio i diritti che sono garantiti anche altri paesi europei, avviene questo arruolamento, e secondo me è un arruolamento che non è nemmeno così evidente come quello che hanno tentato di fare con le donne, cioè con le donne funziona facilmente l'equivalenza straniero sfruttatore, con le soggettività LGBT meno, perché per esempio tutta la serie di aggressioni che hanno montato la campagna contro, cioè sull'omofobia, sulla violenza, eccetera, erano state tutte aggressioni di italiani. Per cui secondo me c'è un gradino in più in questo arruolamento, cioè non dicono direttamente è lo straniero che ti minaccia, ma dicono se tu legittimi le politiche razziste, di contro militare, tutto, noi diamo diritti. Infatti quel documento era proprio quella cosa là, cioè diceva ai gay, alle lesbiche, anzi mai naturalmente nel documento perché è scandaloso, possiamo garantire i diritti civili, però loro devono in qualche modo accettare di essere organici. Però secondo me una chiave per rendere accessibile questo discorso e per renderlo, come dire, cogente, secondo me, per il movimento, è ragionare su in che modo poi retroagisce sulle soggettività che vengono chiamate a essere parte organicamente di questa società, l'adeguarsi. Secondo me, cioè, il discorso del disciplinamento e della normalizzazione è ovviamente quello il punto, è ovviamente il fatto che la normalizzazione poi crea delle altre esclusioni, appunto, del discorso. Però un modo di rendere comprensibile e immediatamente, secondo me, urgente per tutte questo discorso è ragionare sull'inclusione differenziale che questo dispositivo crea, cioè io ti permetto di entrare in qualche modo nella struttura, nella società, però a condizione di stare in una posizione che non è, cioè, chiaro, questo meccanismo si sviluppa, cioè essendo, come dire, restando l'eterosessualità obbligatoria, il perno della società, è chiaro che tu ti poni, anche se sei all'interno, in una posizione, diciamo, marginale, differenziata, E quindi secondo me questo è un, diciamo, un modo di riuscire a rendere più diffuso questo discorso al di là della chiamata ad un impegno di responsabilità verso le altre, verso gli altri, etica in qualche modo, cioè verso il migrante che è l'ultimo scarto della, della catena, ma vuole includerci direttamente. Vittoria. Allora, io avevo chiesto, me l'ho segnata perché volevo dire una cosa, però una piccola cosina a Cesare rispetto alla questione della lesbica madre, e senza polemica, però io sono perfettamente d'accordo con Titti, anche a me dà fastidio perché comunque riporta sempre la lesbica sulla, diciamo, ruolo primariamente, il ruolo primario della donna, che è quello, diciamo, di assicurare la riproduzione, quindi la donna come contenitore, riproduzione della specie e la funzione di cura, quindi è, diciamo, è ricondurre, diciamo, sempre comune. Poi se uno lo desidera può anche essere madre, però propagandare soltanto quell'immagine lì comunque diventa una volta una costrizione, no? In quell'immagine di donna, diciamo. Io in realtà mi ero, avevo chiesto di dire soltanto una cosa, perché volevo sponsorizzare un libro, non l'ho scritto io, che è di Anna Maria Rivera, Anna Maria Rivera, La bella, la bestia e l'umano, sessismo e razzismo, senza escludere lo specismo. E veramente io mi sento di fare la pubblicità a questo libro, perché per me è stato molto utile, proprio perché mette in connessione il razzismo e il sessismo, passando anche per lo specismo. E vi leggo, mi ha sollecitato anche quello che ha detto Renato, diciamo, dopo il dibattito di questa mattina, e la questione delle lesbiche marocchine, no? Perché ve lo leggo, scusatemi, su due righe, perché meglio non lo saprei dire, quindi non mi sovrappongo ad Anna Maria Rivera, vi do proprio le sue parole. Lei dice: anche Nicole Claude Mathieu critica la dicotomia sesso-genere, che tenderebbe a ipostatizzare il sesso come un'essenza immutabile sulla base della quale si costituirebbe il genere in quanto fatto sociale. In tal senso, se questa ipotesi è fondata, si può scorgere una forte analogia con l'arbitrarietà delle categorizzazioni razzialiste e razziste. Non sono le differenze fisiche, la morfologia e la fisiologia dei sessi ad aver prodotto i generi, nonché la loro gerarchizzazione e asimmetria sociale, bensì il sessismo, cioè i rapporti di potere e di dominio, ad aver arbitrariamente scelto quei caratteri come segni distintivi rispettivamente del sesso dominante e di quello dominato. Così non è l'obiettiva variabilità fenotipica umana ad aver reso possibile l'invenzione delle razze, le tassonomie e le gerarchie razziali, bensì il razzismo, cioè un sistema di gerarchizzazione, discriminazione e dominio, ad aver arbitrariamente scelto alcuni caratteri, obiettivamente non più significativi di altri, come segni distintivi di gruppi umani inferiorizzabili, discriminabili e dominabili. E questo secondo me, insomma, ci spiega tutto, ci spiega perché noi possiamo inciampare sulla questione di sesso e genere e perché anche, insomma, due donne che non hanno niente di marocchino possono arbitrariamente essere, diciamo, offese, diciamo, fra virgolette, marchiate, insomma, in questo senso. Cioè, no, io non è che ce l'ho con le lesbiche che fanno delle scelte di quelle. Cioè, la lesbica pubblica madre, a parlare anche di femminismo oggi, forse non abbiamo approfondito tantissimo la questione, è questo, cioè lo sdoganamento di nuovo delle soggettività lesbiche dentro una cornice femminista. Cioè, vedi Gianna Nannini, vedi Gianna Nannini. Sì, cioè quella. Gianna Nannini ha fatto una bambina da sola. Si è svegliata e ha fatto una bambina. Una bambina. Quella secondo me fa una scelta radicale, cioè già un attimo più di autodeterminazione, come vogliamo chiamare. Va benissimo. Però è sui giornali si è puntata che a un certo punto c'era proprio via. Stiamo facendo come con l'inseminazione. No, è fatto gene sicura. È stato un lo spirito. Però quello che diceva c'è anche l'aspetto che diceva lui, cioè al intorno alla, alla riproduzione della genitorialità c'era un grossissimo tabù, no? Perché l'idea che comunque omosessuali e lesbiche abbiano, siano genitori, è un tabù sociale, cioè oggettivamente è un tabù sociale, quindi c'è un elemento normalizzato ma c'è anche un elemento sovversivo. In questo senso l'invito alla, alla complessità, anche la, però secondo me abbiamo pure votato dell'elemento sovversivo nel momento cui o eversivo nel momento in cui questa pratica nomina se stessa rivendicando il diritto di essere riconosciuta dentro la cornice simbolica del familismo, cioè si rifila di nuovo esattamente dalla, da ciò da cui sembrava aver preso il successo. Lo cambia il simbolo, cioè inserirlo. Aspetta, recupero. È un po' sì, un po' di Arezzo Lucia Mangiannini, conosco bene la storia di Lucia Mangiannini e poi il padre della figlia Lucia Mangiannini è un gay paraguay, la storia dell'85. No, era solo per chiudere, perché ho conosciuto bene il professore, perché era la il primo gay straniero ad avere la cittadinanza italiana, è stato questo mio amico, che poi tra l'altro, perché si era sposato con la ragazza di Cagliarini. Ritorna sempre in quella cosa che noi dicevamo prima sulla questione delle immagini, no? Che poi ha detto anche Titti benissimo nel suo intervento, e io però faccio fatica a comprendere la distinzione tra discriminazioni e razzismo, perché molti anni fa noi eravamo, io eravamo in quattro persone transessuali, una italiana e le altre straniere, e siamo andati in una di queste assemblee di quello grosso gruppo che non mi ricordo come si chiamava, che era di antirassismo fortissimo, erano persone molto forti, hanno fatto un'assemblea. Quando noi siamo arrivati lì abbiamo scombussolato tutto, perché loro non aspettavano che quattro persone trans, allora loro mi hanno chiesto, i dirigenti di quello gruppo, ma come mai siete qui, non si siete trans? Perché giustamente io ho detto, guarda, io sono brasiliana, una è colombiana, l'altra è argentina e l'altra è italiana, però noi subiamo razzismo uguale, perché l'altra è, di, è calabrese. Un'altra cosa, un aneddoto, voi vi ricordate di quello, i ragazzi del Muretto, quando c'era il ragazzo del Muretto, no? Allora, i ragazzi del Muretto una volta ci hanno chiamato il Mario Mieli, noi stavamo qua, non so se Andrea si ricorda, per chiedere una trans per far parte di quello sceneggiato. Allora, io, però il regista ha detto, deve essere una nera. No? Beh, certo. Allora io lo chiamai un'amica mia, l'ho svenuta, abbiamo visto cercata, abbiamo detto, ma no, mi campo. Lei doveva fare un pezzo che doveva stare legata al Flaminio, perché era dove battevano le trans, e tutti i ragazzi con i motorini di là che dicevano, molto froscio, travestito. E lei ha detto, ah, io mi sono sentito una stella, perché io ero così, ah sì, ti batto il muro, ti metto nel culo, ti ammazzo. Ma quando mi hanno detto brutto negro, io ho detto slegami, perché? Perché le persone già subiscono nelle loro, nella loro comunità il razzismo, la discriminazione, è quello che vogliamo dire. E io credo che uno dei problemi peggiori nelle comunità è il problema delle lesbiche e delle persone trans, delle trans. Perché? Perché vengono, sicuramente, io quando parlo di donna, Io parlo anche della, diciamo, delle persone F2M, perché le persone F2M subiscono dalla nascita, per tutta l'infanzia, il problema proprio dell'educazione femminile. Per cui aspettano sempre, giustamente come dicevi te, che la donna cresce, dei figli, nipotini, cosa, prima chiedono al maschio, se il maschio non li può dare, li chiedi alla femmina, però la femmina è quasi che una cosa obbligatoria. Per questo che io dico, io ho subito più discriminazioni dentro delle comunità dove io risulto, come per esempio quando io sono stato negli Stati Uniti, la unica comunità che mi ha accettato, non lo so perché era forse porci, erano gli italiani, perché io ero presa come dominicana, come qualcosa, Parigi, marocchina, per cui io sentivo questa doppia discriminazione, una per l'appartenere a una razza e l'altra, beh, basta dire che voi non mi avete conosciuto, nell'81 è stato, ho fatto la mia prima chirurgia plastica e io avevo gli occhi a mandorla perché sono di origine indigena e io l'ho fatto diventare tonda perché non ce la facevo più, mi dicevo cinese, ma sei pure proscio, dicevano nel mio paese, per cui io ho subito tanto questa doppia, per questo che io ti capisco bene a Titi quando tu parla marocchina e basta lì, perché che molte volte anche le persone hanno nell'inconscio proprio la cattiveria, no? Nell'inconscio dice perché io lo so, perché la mia suocera quando è una donna semplice, popolana, non è borghese, ma lei quando si parla di omosessualità femminile, di lesbianismo, lei c'è un odio dentro, no? Ma un odio proprio che lei dice che orrore, ma io non, è una sozzeria, ma due donne. Adesso piano piano lei sta cominciando a concepire perché? Perché io spiego a lei che cos'è la sessualità, che cos'è. E lei ha detto, sì, una delle cose che è una donna intelligente, lei ha detto sì, le persone si sono così, che siano così, perché sono così non possiamo cambiare. Per questo io dico, secondo me tocca a noi a dare un po' di luce alle persone, però le persone che subiscono il razzismo sono i peggiori razzisti. Elena. Due o tre cose velocemente. Vabbè, sulla questione della maternità all'estero sostanzialmente quello volevo dire, ha detto Vittoria, cioè nel senso che nell'ambito del pensiero femminista e lesbico radicale si è discusso molto, oltre che di eterosessualità obbligatoria, anche di maternità obbligatoria. È quello il problema che poi si legge, nel senso che quando tu nasci femmina, così come dal maschio ci si aspetta che ne so, che faccia carriera, che abbia un buon lavoro, eccetera, eccetera, a te si aspetta che abbia dei figli, sostanzialmente. I miei si aspettano ancora, qualcosa non me lo pausano. E questo è vero che probabilmente la maternità, la genitorialità gay, lesbica può avere un suo potenziale eversivo, però questo si commentava da questa parte. Anche la coppia gay ha un suo potenziale eversivo, volendo, no? Due maschi, che però noi ne abbiamo visto e analizzato anche molto invece il portato conservatore familista, quindi insomma il problema è anche sempre quanto accento si mette sulle cose, e in questo momento l'Italia va tantissimo. Io siccome so che è andato tantissimo per anni a San Francisco eccetera, questa cosa della maternità lesbica, aspetto che passi, insomma prima o poi passerà pure questa moda, cioè nel senso di parlare prioritariamente di quello. Poi io ho un'amica anche cara che ha due gemelle, insomma non è che bene, sono contenta per loro, insomma non è un problema, insomma quello che vorrei dire. Però devo dire, se posso raccontare un aneddoto che può far ridere ma può far anche incazzare, quando è stata questa coppia lesbica ha deciso che una delle due insomma avrebbe provato la via dell'inseminazione eccetera, la, il patto che è stato stipulato tra le due e che era la condizione proposta dall'altra, che poi è la mia amica, nella, cioè la persona cui ho più relazione, era però al Pride non andiamo sul trenino. Nel senso che non appunto non voleva sottrarsi a quell'uso propagandistico della maternità sostanzialmente. E detto questo, invece volevo dire due cose. Le bambine quando vanno sul trenino. E l'altra cosa invece volevo rispondere in parte insomma a Filippo, nel senso che a mio parere il piano del discorso, come l'hai posto tu nelle tue domande, è completamente un altro rispetto a quello di cui si stava parlando, nel senso che io non posso chiedere a un iraniano, a un'iraniana o a uno straniero qualunque di farsi carico delle politiche di Ahmadinejad, così come spero che a me non venga chiesto di farmi carico delle politiche di Berlusconi, eccetera, eccetera. Cioè, è proprio un altro piano del discorso. E io credo che noi abbiamo il dovere di porci il problema di quello che succede in questo paese, dove rispetto a chi arriva noi viviamo una condizione di privilegio. E di questo parliamo, perché altrimenti veramente scadiamo in una retorica trita, cioè quando toglieranno il velo alle donne in tutto l'Islam, allora potranno venire qua. Fra l'altro, appunto, come dicevano prima Titti, Renato, eccetera, Barbara, cioè la Germania, appunto, che citava Barbara, dove nel test per la cittadinanza viene inserito la questione dell'omosessualità, del genere, eccetera, la prima legge che ha fatto di riconoscimento dei diritti LGBT è degli anni 2000, mentre ora si passa come tradizionali dell'Europa i valori dei diritti LGBT, ma tradizionali di che? Cioè, nel senso, vorrei ricordare che nella civilissima Inghilterra, fino a che, al primo governo Blair, c'era la Clause 28, e adesso, cioè, quindi si tratta del 98, mi pare, cioè anni di questo genere, non so se vi ricordate, insomma. Insomma, ad esempio se ne può fare tanti e tanti. E poi bisogna anche stare attenti a, ovviamente, e questo il movimento italiano non ci sta attento per niente, a cavalcare campagne imperialiste, perché in Italia si parla solo delle impiccagioni in Iran. Perché si parla solo delle impiccagioni in Iran? Perché esiste un'associazione americana, che è quella che ha sede a San Francisco, che si chiama Alto Protettorato dello Socché, ma che non è, che è un'organizzazione governativa pagata dal governo statunitense, che produce continuamente comunicati stampa su quello che succede in Iran, alimentando una campagna internazionale contro l'Iran. Ma voi avete mai sentito un comunicato stampa su quello che succede in Arabia Saudita? Pensate che i gay, le lesbiche, le trans stiano bene in Arabia Saudita? È semplicemente che quello non è un paese canaglia, per come li gestisce il potere imperialista americano. Per cui per noi è un problema quello che succede in Iran. Quello che succede in Kuwait o in Arabia Saudita, cioè in quei paesi che sono allineati agli Stati Uniti, no, non ci riguarda. E questi comunicati stampa arrivano in Italia, vengono tradotti in italiano e rimessi in circolazione. Così, supinamente, senza nemmeno porsi il problema del perché si parla solo di quel paese. Poi è chiaro che io sinceramente, proprio questo credo sinceramente, non ho proprio neanche una goccia di nazionalismo e d'orgoglio nazionale nel mio sangue, né me ne frega proprio niente dei confini, cioè nel senso non è neanche un vanto da parte mia, proprio sono cresciuta, sono nemmeno campanilista pur essendo toscana, e si sa che il campanilismo è insomma imperversa in Toscana, ma cioè, noi dobbiamo porci da questo punto di vista, cioè nel senso che noi strumentalizziamo questa questione, partecipiamo altrimenti di questa strumentalizzazione, nel senso che la versione democratica di questo discorso qual è? La versione democratica è dire: accidenti, ora che stavamo procedendo arrivano questi immigrati e ci fanno ritornare indietro il discorso. Ma perché arrivano? Cioè, nel senso, perché non devono arrivare? Cioè, nel senso, è chiaro che il mio problema è il patriarcato, il sessismo, l'omofobia, la transfobia, la lesbofobia, eccetera, eccetera. A me non cambia nulla se quello che la porta avanti è nato in Iran e poi è venuto in Italia, oppure è nato a Empoli e continua a vivere a Empoli. Perché io personalmente ritengo che chi sia nato in Iran o a Empoli ha tutto il diritto di star qua e non ha nessun diritto di essere sessista, omofobo, cioè, quindi non dovrebbe spostarci. Le condizionano così, mi sembra, le leggi italiane. Oltre a non condizionare così le leggi italiane. L'ultima cosa che dico molto velocemente, perché la dico tre volte apro bocca, quindi chi mi conosce è molto annoiato da questa vicenda, però io credo che noi ce lo dobbiamo ricordare, perché ci ritroveremo di nuovo di fronte a questa cosa. Cioè, io vi ricordo che il famoso dispositivo antiomofobico proposto da Paola Concia non era una proposta di legge a sé stante, ma era un'integrazione del pacchetto sicurezza, cioè il più grande avallamento delle politiche razziste in questo paese l'ha fatto l'unica esponente lesbica dichiarata che c'è in Parlamento. Perché lei non ha proposto una legge, lei ha proposto di aggiungere un comma a un articolo del pacchetto sicurezza, riconoscendo evidentemente il pacchetto, perché se non lo riconosci non ci mette un comma dentro. Un comma che si andava a posizionare graficamente al punto successivo della definizione del reato di clandestinità. Cioè, non sarà l'11 o il 13 l'articolo, il bis sanciva il reato di clandestinità. La proposta del TER, che poi non è passato, era l'aggravante omofobica. Al di là del fatto che, oltre a questo, io non credo che più galera per tutti sia una soluzione. Cioè, una legge che propone semplicemente un aggravante delle pene risolverà il problema dell'omofobia, della lesbofobia e della transfobia, io credo che non lo intaccherà nemmeno. Comunque, io questo lo volevo ricordare. Scusa. Cioè, io voglio parlare anche di una situazione che è diversa di questa, però che penso probabilmente, cioè, tra un po' in Italia o a un certo punto succederà anche, quindi vorrei parlare un po' della situazione di Francia che conosco meglio, e su questa, cioè, questa cosa che si è detto un po' all'introduzione, cioè che non ci sono ancora tante soggettività migranti LGBT che sono emerse, e quindi dire un po' diversi modi in cui sono emerse in Francia. Il primo sarebbe un esempio, cioè, vissuto, diciamo, che un'amica mia militante antirazzista, antiliberista e musulmana, che porta il velo e che è lesbica, una volta si presentò a non so più quale discoteca e doveva essere una discoteca LGBT, diciamo, e che non l'hanno fatta entrare perché c'era il velo e quindi non poteva essere lesbica. Cioè, hanno detto: tu non sei lesbica perché c'è il velo. E questo, secondo me, è una cosa importante, perché è reale che nel movimento LGBT, cioè nei nostri movimenti comunque, cioè, magari non nei nostri movimenti, però c'è questa supposizione che alla fine gli arabi sono, cioè, i maschi sono sessisti, le donne sono sottomesse e sono tutti etero e non sono omosessuali, o se no sono appunto molto oppressi. E quindi, e questa cosa, secondo me, è anche una spiegazione del perché è anche difficile far partecipare soggettività LGBT migranti ai nostri movimenti, perché se comunque c'è questa cosa che è difficile togliersi dalla testa, ovviamente questa gente non si sente al suo agio nelle nostre organizzazioni, cioè organizzazioni, associazioni, movimenti, eccetera. Un'altra cosa, e che è una cosa anche a cui bisogna fare attenzione, è che tutte le narrazioni o tutti i discorsi fatti da migranti LGBT non sono per forza liberatori e antirazzisti, eccetera. Un esempio sarebbero due libri che sono usciti in Francia l'anno scorso, che parlano tutti e due di omosessuali cresciuti nelle banlieue francesi, e che ne parlano come luoghi così molto violenti, molto omofobi, eccetera, e quindi che costruiscono, cioè E qui così si vede il percorso necessario di, cioè semmai c'è qualcuno che è omosessuale, che è arabo, che vive in questi luoghi dove ci sono tanti immigrati o seconda e terza generazioni, l'unico percorso possibile è di uscire di questi luoghi, di uscire dalla famiglia, di staccarsi di tutto questo, magari anche di criticare pesantemente questi luoghi, queste origini, la gente che ci vive, eccetera. E di quindi anche lì c'è questa cosa che, di cui si parlava su di come si fa un discorso che include in maniera molto normalizzante tipo gli LGBT e anche lì LGBT migranti. E secondo me anche un'altra conclusione di questo è che anche la famiglia in questo modo si deve vedere in modo un po' problematico, cioè che qui abbiamo molto criticato la famiglia, e anche per ragioni molto giuste, che non è un luogo accogliente per tante ragioni, e che però dal punto di vista dei migranti, e cioè in Francia particolarmente degli arabi, la famiglia è un posto che bisogna difendere, perché spesso è il luogo che è attaccato molto dalle politiche razziste bianche, che, dicendo è il luogo della tua oppressione, devi uscire e ti devi adattare a un nuovo modello dell'individuo che si libera, eccetera. E quindi in quanto LGBT antirazzisti bisogna essere attenti a non obbligare migranti a questa contraddizione, cioè non dobbiamo mettere la gente in questa contraddizione, e anche se questa gente ci racconta che la sua famiglia può essere omofoba, cioè, però si deve tenere in conto che la famiglia può anche essere un luogo di protezione importante per molte gente. Ultimo intervento, Federica. Sì, velocissimo, perché poi andando via voi. No, giusto una battuta, se è stato terza Vittorio, sarà prevista anche un'area giochi per i bambini, so che ci si prova il cinema. Mettiamo il treno in giro. Magari lontano dalla anche un fatto. Poiché alla classe non mi ha mai detto. No, una cosa. Sera prevista.